Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Francesco Sansone. Buonasera. Francesco Sansone, amministratore delegato di Valore, società di consulenza ed education, leader in Italia nella gestione dei processi di cambiamento della cultura aziendale, e proprio di questi processi di cambiamento ci parla in un nuovo libro, Leadership Responsabile, edito da Franco Angeli, le 10 regole per essere leader nell'economia della conoscenza. La prefazione di Giovanni Bazzoli, l'introduzione di Dominique Salvatore, la postfazione di Maurizio Sella, ma all'interno del libro c'è un percorso per indicare cosa è cambiato nelle grandi aziende, ma anche nelle medie aziende, che cosa bisogna fare per diventare leader e soprattutto per mantenere una leadership che sia responsabile. Ecco, mettere insieme queste due parole, Francesco Sansone, forse non è tanto di moda. Il leader dovrebbe essere qualcuno che guida. Cosa vuol dire essere responsabili? Leader responsabile è uno che guida, ma con un'autorità che è piuttosto autorevolezza, che dunque nasce dalla sua capacità di generare consenso. Sappiamo che la leadership nel tempo si è evoluta come significato e c'è una storia, no, del ruolo del leader come appunto direttore, come dirigente, ma oggi sappiamo che nell'economia della conoscenza, dove sono strategici piuttosto gli asset intangibili, no, come appunto la reputazione, la conoscenza, la condivisione dei valori e dunque il fare squadra, il gestire le conoscenze, la gestione del cambiamento, ma soprattutto l'innovazione, evidentemente in questo contesto sono vincenti quelle capacità da parte di coloro i quali hanno responsabilità di persone di gestire il consenso e dunque attraverso appunto quegli strumenti di tipo personale oggi si definiscono piuttosto che competenze o soft skills, come tradizionalmente, no, abbiamo imparato in qualche maniera a denominarle. Oggi la frontiera più avanzata e sulla quale io mi sono in qualche modo esercitato in questo mio volume sono le competence attitude, ovvero gli atteggiamenti, no? Ecco, in questo senso viene in primo piano proprio la personalità del leader, la personalità del dirigente, non tanto gli strumenti, non tanto le tecniche, non tanto l'osservare delle regole, diciamo così, da management americano, molto teoriche, molto astratte, ma il fatto di avere una personalità, una capacità di essere fino in fondo delle persone. E infatti queste 10 regole, forse un po' a sorpresa, non sono 10 regole diciamo così contabili oppure burocratiche, ma sono regole che afferiscono direttamente alla capacità delle persone. Vediamo un po': l'affabilità, il coraggio, la generosità, la lungimiranza, l'ottimismo, la passione, la perseveranza, la trasparenza, l'umiltà e per ultimo anche un po' di umorismo. Ecco, non ci si aspetterebbe queste caratteristiche in un libro di management. Sì, di fatto è anche un po' una provocazione, evidentemente, questo volume, nel senso che all'interno dei più avanzati modelli di leadership, di cui io redigo una rassegna insieme appunto agli strumenti classici che sono, come dicevo, la fiducia, la credibilità, la reputazione, la condivisione dei valori, il pensiero, lo stesso pensiero flessibile, di fatto mi sono andato convincendo che al di là di questi strumenti, che naturalmente sono centrali, importanti, in realtà altro è lo strumento, altro è il manico, come si dice, no? Ovvero sia, il tema oggi è la persona, ovvero il codice di riferimento valoriale della persona. Dunque oggi c'è bisogno nelle imprese, nelle organizzazioni soprattutto complesse, di condividere un nuovo codice di leadership. Ecco, questo è tanto più vero nella realtà attuale, la realtà diciamo di crisi economica, una crisi che stenta ad essere superata, lo sottolinea Giovanni Bazzoli, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, nella sua introduzione, parlando parlando del successo dell'impresa, come si misura il successo dell'impresa, e Bazzoli scrive: la crisi che ha investito l'economia mondiale a partire dal 2008 ha messo chiaramente in luce i limiti di una logica capitalistica che incalza le imprese in modo parossistico, esigendo profitti e misurando i risultati in tempi sempre più brevi, spesso incompatibili con il perseguimento di obiettivi di sviluppo di lungo periodo. E per correggere questa impostazione, dice Bazzoli, le regole non bastano, è necessario un cambiamento profondo nella coscienza dei manager e degli amministratori. È vero che la libertà di iniziativa economica appartiene ai diritti inviolabili della persona, ma il suo primato non può essere assoluto. Occorre che chi regge le sorti dell'impresa avverta anche la responsabilità di essere membro e protagonista dell'economia e della società civile. Cioè, il leader non è un uomo solo all'interno dell'impresa, l'impresa non è una realtà isolata dal resto della società, ma è sempre, deve essere portata avanti una visione unitaria. In questa prospettiva la persona, il leader, deve essere una persona fino in fondo. Francesco Sansone. Assolutamente, questo è un grande tema a cui non si dedica la necessaria attenzione, ma mi riferisco esattamente ai modelli antropologici di impresa, cioè al significato dell'impresa stessa, no? Per cui sappiamo che in questo senso si profila, si delinea un modello di impresa che vede l'impresa come comunità di persone, dunque che lavorano per un'altra comunità di persone che è il mercato, e dunque l'eccellenza del prodotto, che oggi è un requisito necessario, indispensabile per la competitività e per restare sul mercato stesso, no? Per la sopravvivenza se non per la crescita, è dato esattamente dalla qualità della dimensione discrezionale del compito, ovvero sia come noi lavoriamo quel prodotto. Ora, questa dimensione, che è la dimensione soggettiva del lavoro, è intimamente connessa al significato che il lavoro ha per ciascuno. Quindi, evidentemente, la dimensione della responsabilità della persona verso il lavoro, dunque la dimensione soggettiva del lavoro, è intimamente connessa al modello antropologico di impresa. In questo volume si propone un modello antropologico di impresa centrato esattamente sulla qualità della responsabilità della persona verso il lavoro in un'impresa, comunità di persone per una economia amica dell'uomo. Grazie a Francesco Sansone di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro Leadership Responsabile, le 10 regole per essere leader nell'economia e nella conoscenza, edito da Franco Angeli, sono 144 pagine per 18 euro. Ecco, dopo aver parlato di leadership responsabile, parliamo ancora di lavoro sotto un'altra prospettiva e ne parliamo con Giuseppe Sabella. Buonasera Giuseppe Sabella. Buonasera direttore. Giuseppe Sabella è fondatore e direttore di ThinkIn, un think tank specializzato in economia del lavoro, ed ha curato l'edizione italiana del libro Che cos'è il lavoro? Una prospettiva cristiana, edito da Cantagalli. Il libro è di Lester De Coster, che è uno studioso della Chiesa cristiana riformista negli Stati Uniti, che ha scritto questo volume. Allora chiedo a Sabella: perché è importante questo libro? Perché avete deciso di pubblicarne l'edizione italiana? Ma premesso che quando ho iniziato a occuparmi di questo lavoro e quando l'ho conosciuto soprattutto attraverso il curatore dell'edizione americana, visto che Lester De Coster è morto nel 2009, non mi sarei mai immaginato che traducendolo trovassi l'interesse di un editore così importante e anche di chi comunque mi ha dato dei contributi, come Monsignor Crepaldi, Raffaele Bonanni, Stefano Colilanzi. Perché io trovavo importante, e poi chi ha collaborato con me a sua volta ha ritenuto importante tutto questo, perché riteniamo di essere in un momento in cui cresce una progressiva perdita di senso del lavoro in Italia, non solo in Italia. Se pensiamo per esempio al fenomeno giovanile, non è solamente la disoccupazione, ma la vera piaga sociale poi sono gli inattivi, coloro che non studiano e non lavorano, sono oltre 2 milioni. Ecco, questo è un dramma sociale che richiede appunto una lettura di questo dramma, ma anche richiede degli interventi, richiede, come dicono anche dell'introduzione, lei ha citato Monsignor Crepardi, che ha scritto appunto parte dell'introduzione, così come il segretario della CISL Raffaele Bonanni, e all'imprenditore, che è una società di lavoro interinale, Colli Lanzi. Ecco, questi interventi richiesti per affrontare questo tema devono partire da una valorizzazione nuova del lavoro. Sì, certamente. Io credo che è troppo semplice, quando si parla di giovani oggi, liquidare il fenomeno come la poca voglia di lavorare. Qui c'è un problema strutturale che dura da 30 anni, se ne parla solo oggi perché chiaramente la crisi ci mette di fronte alla gravità di questi fenomeni, ma comunque la marginalizzazione dei giovani nel mercato del lavoro in Italia dura da 30 anni. È chiaro che più il giovane tocca con mano la marginalizzazione, più ha paura e più si sente, come dire, rassegnato, ecco, certo. Poi come chiamiamo i giovani inattivi in Italia. Io credo che, oltre, come dire, alle responsabilità di una generazione che comunque ha teso a marginalizzare per conservare il proprio status quo, io sono convinto che è venuta meno anche un qualcosa a livello educativo. Penso ai luoghi proprio dell'educazione, la scuola soprattutto, dove il significato del lavoro è un po' scomparso. Ecco, in questa prospettiva il libro ripercorre molto spesso il fatto che il lavoro sia un fare qualcosa di utile agli altri, cioè non è solo qualcosa che serve, indubbiamente serve anche per procurarsi il necessario per vivere, ma è soprattutto un fare qualcosa di utile. Quindi qui viene fuori anche l'aspetto, diciamo così, della vocazione, delle capacità, delle potenzialità che ciascuno ha, quindi una valorizzazione della persona nella sua integralità. Certamente, a parte il fatto che comunque i più grandi esperti in Italia proprio lamentano la carenza dei nostri servizi per l'orientamento, quindi i giovani sono anche poco aiutati a capire qual è la loro strada, a lavorare sui loro talenti, però mi viene proprio da dire che anche a livello culturale oggi si svalorizzano molto certe professioni che nessuno vuole più, certo, fare, quando in realtà poi il punto non è proprio nessuno vale a seconda di quello che fa, ma diciamo che tutti possiamo valere per come facciamo quello che facciamo. Ecco, questo è quindi un recuperare in fondo la dignità del lavoro, la dignità di ogni lavoro, di tutti i lavori, che devono corrispondere alle esigenze della società da una parte, ma anche alle potenzialità della persona. Se possiamo appunto riassumere un po' la filosofia di questo libro, che ha tanti spunti di riflessione. Grazie Giuseppe Sabella di averci illustrato questo libro, di cui ha curato l'edizione italiana. Il libro è di Lester De Coster, Che cos'è il lavoro? Una prospettiva cristiana, edito da Cantagalli. Sono 144 pagine per 9,50 euro. Grazie a Sabella, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Marco Ferronato in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo.